Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Anche questa mattina, come abbiamo anticipato ieri, Salva Danaio si occupa di scuola. Ieri ci siamo concentrati soprattutto sul momento della scelta della scuola superiore, abbiamo parlato anche di medie ed elementari, sempre con l'occhio attento ai costi che questo momento così importante comporta, oltre che le prospettive. Oggi facciamo, per così dire, un passo indietro, andremo a scoprire quanto costa mandare a scuola i bimbi più piccoli, al nido prima dei 3 anni e poi alla scuola dell'infanzia fino ai 6. Ci soffermeremo in particolar modo sul nido, perché abbiamo scoperto dalle testimonianze che ci hanno mandato alcuni ascoltatori che sta diventando un autentico salasso, perché i costi sono in aumento e, come tanti di voi potranno raccontarci, vi invitiamo a farlo, si rivela sempre più difficile appunto iscrivere i piccolini al nido. Sia nel caso dei nidi che delle scuole materne bisogna fare i conti con anche la scarsa disponibilità di posti nelle strutture comunali, infinite liste d'attesa che spesso rendono una necessità e non una scelta quella di rivolgersi alle scuole private. Per quanto riguarda i nidi, poi i prezzi, come dicevamo, sono sempre più salati anche per le strutture comunali, senza dimenticare tutte le spese che orbitano intorno all'iscrizione: materiale, abbigliamento, trasporti. Sono costi giustificati anche dal fatto che chiaramente il bebè ha bisogno di un certo tipo di attenzione, ma naturalmente sono spese molto elevate. Faremo un punto della situazione perché, come frequentemente fa, credo che sia un'indagine annuale, l'organizzazione Cittadinanza Attiva ha appunto condotto e divulgato il consueto monitoraggio annuale sugli asili nido comunali in Italia, tra caro rette, liste di attesa. Le sorprese sono molte, c'è un divario molto importante anche sulle spese che si devono sostenere fra nord e sud, ma addirittura a volte anche all'interno delle stesse regioni. E allora ne parleremo di tutto questo. Vogliamo raccogliere assolutamente anche oggi le vostre testimonianze. Se state già pensando di prenotare per il prossimo anno, per il prossimo settembre, i vostri bambini ad un nido o prima, adesso io non so neanche esattamente quando, se per l'inserimento appunto di un bebè al nido funzionino gli stessi tempi delle altre scuole, se si comincia da settembre piuttosto che si può iniziare anche in altri mesi. Comunque raccontateci un po' come vi state orientando nella scelta, che costi state trovando, come funziona la struttura comunale del vostro paese, della vostra città. Noi ne discuteremo di tutto questo questa mattina con Tina Napoli, responsabile progetti area consumatore di Cittadinanza Attiva, che dovrebbe già essere collegata telefonicamente con noi. Buongiorno dottoressa Napoli, benvenuta. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Buongiorno anche ad Angela Nava, presidente del CGD, Coordinamento Genitori Democratici. Dottoressa Nava, buongiorno. Buongiorno a voi. E Paolo Uniti, segretario di Assonidi, l'associazione provinciale degli asili nido e scuole dell'infanzia privati. Buongiorno a lei. Buongiorno a lei e grazie. Provinciale di Milano, naturalmente abbiamo questa, non ho detto la città. Allora, 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande, per le vostre testimonianze soprattutto, quindi potete intervenire da subito in diretta e prenotarvi da subito in diretta. Ci potete anche scrivere al 349 238 6666, all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure se volete potete animare il dibattito che è già partito da ieri, da quando abbiamo segnalato appunto la nostra trasmissione, appunto sul nostro profilo Facebook, che è salvadanaio-radio24. Allora, perché noi abbiamo avuto l'idea di fare questa trasmissione? Anche perché c'era stata pungolata da un'ascoltatrice di Padova che ci aveva scritto nei giorni scorsi. Io non vi leggo la sua mail perché l'abbiamo rintracciata e le abbiamo chiesto di intervenire questa mattina in diretta per raccontarci un po' che cosa sta succedendo nella scuola materna che frequenta suo figlio. Barbara da Padova, buongiorno. Ci sente? Sì, salve, buongiorno. Buongiorno, sta lavorando? Sì, sono al lavoro. No, è successo che hanno fatto una riunione che l'anno prossimo hanno detto che aumenteranno la retta da 170 a 200 euro. Sembra, non sembra una cifra eccessiva, il problema è che dopo lo vai a sommare anche 30 euro secchi in un mese, non è che siano pochi, insomma. Esatto, che poi vanno sommati all'asilo nido e alla fine si va a pagare oltre i 500 euro al mese tra nido e materna. Ah, perché ha due figli, Barbara? Esatto. Poi ho letto anche della sua mail che anche l'iscrizione... L'iscrizione è aumentata e va a 150 euro contro i 100 euro che era l'anno scorso, cioè quest'anno, l'anno prossimo sono 150. E sì, insomma, sono una bella cifra. E questa è la scuola materna privata, perché nella scuola statale i posti accessibili sono 15. Nella comunale lì, Barbara, quale sarebbe stato il costo della... La comunale va in base al reddito, però credo sia intorno ai 90 euro al massimo come cifra. E quindi qui praticamente è ben oltre il doppio, in ogni caso dovendosi rivolgere alla struttura privata. Barbara, come farà? Li manderà lo stesso comunque? Non ha alternative? Quello che va adesso alla materna, continuerà ad andare lì e l'altra piccolina cercherò di scriverla quando sarà ora alla statale, però appunto i posti sono, li ripeto, 15 contro i 35 posti della privata, quindi anche la statale non è che dovrebbe essere un servizio garantito la materna. Infatti, però così è impossibile praticamente farli iscrivere, a meno che non hai tre figli, allora sei a un certo punteggio. Ma le è venuto anche in mente di sperimentare questa soluzione, Barbara, fare il terzo figlio per trovare una soluzione più economica all'asilo, al nido e alla materna? Grazie per averci scritto, Barbara. Grazie, che tra l'altro scrive anche sul nostro profilo Facebook, ne siamo contenti. E allora la cosa mi ha colpito appunto è proprio questo aumento secco della retta mensile da 170 a 200 euro, qua senza nessuna possibilità di scelta chi per Barbara appunto deve subire questo aumento, oltre all'iscrizione da 100 a 150. Cittadinanza attiva, la dottoressa Napoli, che cosa avete scoperto voi nel vostro monitoraggio annuale che fate appunto sugli asili nido comunali in Italia? È frequente in questo momento la situazione dell'ascoltatrice di Padova, molte scuole, molti asili nido appunto stanno comunicando che tra qualche mese appunto ci saranno dei rincari? E allora, Cittadinanza Attiva dal 2005 comunque realizza questo tipo di ricerca tramite la sua struttura, l'osservatorio comunque prezzi e tariffe, dove diciamo qualche dato che rafforza diciamo quello che ha detto comunque l'ascoltatrice Barbara. Dal 2005 ad oggi le tariffe sono aumentate in media comunque in tutta Italia del 4,8%, in particolare nel 2010 e nel 2011 ben 26 città hanno ritoccato comunque all'insù diciamo le rette di frequenza e 5 capoluoghi registrano incrementi che sono a due cifre. Questi ci sembrano i dati diciamo più significativi da segnalare: Foggia più 54,6, Alessandria più 24,3, Siracusa più 20%, Caserta più 19,5, Catanzaro più 19,4. Dottoressa Napoli, la voglio solo interrompere un attimo per capire. Foggia più 55%, la percentuale è enorme, si partiva da un livello molto basso? Era sicuramente comunque un livello basso, in quanto al sud diciamo dalla nostra classifica sono diciamo le tariffe comunque più economiche. Si partiva da un livello basso, ma è un aumento comunque considerevole, anche se raffrontato comunque col costo della vita, certo, con la qualità della vita, ecco, comunque più il 54,6. Diciamo non è fra quelle più economiche nell'ultimo anno, comunque non era nemmeno negli anni precedenti. E Foggia era su una fascia comunque intermedia, però chiaramente è un dato estremamente significativo, anche perché, anche se paragonato comunque al fatto che l'Italia è ben lontana dall'obiettivo comunitaria di copertura del servizio, diciamo noi siamo al 6,2% rispetto al 33% comunque degli altri paesi europei. Diciamo il dato è significativo rispetto al problema asili nido nel nostro paese, che rimane comunque un problema significativo e che si prefigura ancora più significativo, che avrà un maggiore impatto comunque nelle famiglie dopo i tagli che ci sono stati agli enti locali negli ultimi mesi e quelli che comunque ci saranno. Città virtuose, dottoressa Napoli, dove le famiglie si sono potute salvare da questi rincari, dove si potranno salvare da questi rincari? E diciamo che una città virtuosa rimane Roma come città Città Virtuosa e Milano, che ha comunque registrato un aumento, diciamo, meno significativo. Dopo ci sono delle regioni che sono, diciamo, si attestano sempre su tariffe molto basse, anche con un servizio comunque però differente, che è la Calabria, che rimane comunque la regione comunque più economica. Mm-hmm. Però chiaramente questi sono i dati legati comunque alle tariffe. Noi contiamo anche in futuro di legare questi dati anche alla qualità del servizio. Infatti. Per correttezza, diciamo, comunque va detto, perché abbiamo chiaramente a Catanzaro, questo per dire due range, a Catanzaro una retta di 80 euro, comunque all'Ecco di 537. Questo dato è calcolato, è un'analisi, diciamo, svolta su una famiglia tipo di 3 persone, genitori e figlio da 0 a 3 anni, con un reddito lordo annuo di 44.200 euro e relativo ai 16.900 euro, per cui questo è, diciamo, il campo della ricerca, e il range è Catanzaro 80, l'Ecco 537. Incredibile, e io non credo che i bambini di Catanzaro non dormano appunto su lettini assolutamente dignitosi rispetto a quelli di Lecco. Poi magari ci racconterà qualcosa di più rispetto anche a queste differenze macroscopiche, che a volte sono enormi anche all'interno di una stessa regione. Però Angela Nava, presidente del coordinamento genitori democratici, abbiamo capito che, insomma, per una giovane coppia decidere di fare un figlio diventa un lusso qualche volta notevole. La gestione economica dei primi 3 anni di vita del bebè, nonostante la gioia immensa che questa esperienza porta all'interno della famiglia, è comunque, dal punto di vista, appunto, ribadisco, economico, un'impresa titanica. Qualche volta il nido è diventato veramente un impegno finanziario da tenere e da valutare con grande attenzione. Se non sia la rete della protezione sociale della nonna che ci aiuta in questi primi mesi, insomma, se si deve accedere all'asilo nido, la mamma deve veramente fare i conti se continuare a lavorare o meno. Qual è, come dire, anche le segnalazioni che vi arrivano alla vostra organizzazione relativamente a questo problema? Se potessi uscire dai dati, non ce li ho ovviamente, non ho un osservatorio statistico raffinato come Cittadinanza Attiva e porto quindi più gli umori, e come devo dire, il nostro osservatorio registra le passioni e la cultura. Bene, c'è un cambio culturale, c'è una regressione di questo paese. Altro che pensare che il nido sia un diritto per il minore. Stiamo tornando sempre più, ma per ragioni proprio contingenti, no? A sradicare il nido come opportunità socializzante di crescita e, perché no, di apprendimento. E stiamo ritornando ad un'Italia in cui deve vigere per forza una sorta di familismo, direi morale in questo senso e non amorale, dove vale la rete della solidarietà dei nonni laddove ci sono, eccetera. Perché nonostante, cioè, ancora si pensa che il nido, non parlo della scuola d'infanzia che poi è segmento dell'istruzione e attiene alle responsabilità di uno Stato, e siamo molto lontani invece dal poter fornire il servizio a tutti i bambini d'Italia, dai 3 ai 6 anni, tant'è che le liste d'attesa proliferano, che le convenzioni col privato diventano una necessità, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il nido come diritto, come strumento di crescita del bambino, è veramente diventata un'utopia. Questo indica anche una regressione culturale, perché non faccio solo il solito discorso per cui ci si fa i conti, è probabilmente più efficace, se più funzionale all'economia della famiglia, che la donna stia a casa, perché se devo spendere 537 euro e forse ne guadagno 800, comincio veramente a farmi i conti, in qualche modo. Oppure, insomma, lo si considera proprio come un investimento, si tiene duro per i primi 3 anni, poi la situazione, esatto, si alleggerirà progressivamente, però se 3 anni sono tanti. E però i soldi sono tanti, sì, perché poi c'è anche tutto il contorno che, insomma, attiene al nido, e variano molto anche gli standard qualitativi, il vigilante 1 a 6 o 1 a 8, non ci sono non esiste una legislazione regionale che definisca degli standard di qualità unici per tutto il territorio nazionale, quindi non solo si spende, però appunto il discorso della qualità non lo mettiamo neanche più in conto. Certo. Allora, ci fermiamo per un attimo, abbiamo la nostra prima pausa, poi cominceremo a sentire subito i nostri ascoltatori. Ci sono dei papà in attesa, Andrea da Cesena e Giovanni da Torino. Vi leggo anche una mail di un altro ascoltatore che ci ha scritto a Facebook, su Facebook ieri: io al nido comunale di Olgiate Olona Varese pago 450 euro, tariffa piena dalle 7.30 alle 18.00. 18, per il secondo figlio mi fanno lo sconto del 50%, ma complessivamente fanno sempre 780 euro mensili per 11 mesi, più mutuo, rata della macchina, la piscina per i bambini. Quando anche il secondo avrà finito, avrò versato circa 28.000 euro al comune e tutto questo per poter lavorare. Oggi parliamo di asili nido, una spesa molto importante per molte famiglie italiane che molto spesso, sia rivolgendosi a strutture comunali, sia rivolgendosi a strutture private, appunto diventa un impegno dal punto di vista finanziario sul quale riflettere attentamente. Qualche volta però, insomma, non è che si possano fare grandi riflessioni se non si ha, come dicevamo prima, la rete di protezione sociale che sostiene mamma e papà. Se non si ha un nonno o una nonna disponibili, chiaramente è chiaro che si deve ricorrere per continuare a mantenere il posto di lavoro alla struttura dell'asilo nido. Però sono diventati dei costi molto importanti. Come dicevamo, c'è il monitoraggio di Cittadinanza Attiva che fotografa una situazione molto differenziata in Italia, con delle cifre in certe città enormi. Lecco, la spesa per la retta mensile di 537 euro, 6 volte più cara rispetto a Catanzaro, dove si spendono 80 euro mensili. Certo, bisognerebbe vedere la qualità dei servizi, ma per prendersi cura di bambini così piccoli auspichiamo che al di sotto di un certo livello non si vada assolutamente. Prima di sentire Paolo Uniti, segretario di Assonidi, l'associazione provinciale di Milano degli asili nido e delle scuole dell'infanzia privati, vorrei sentire subito alcune testimonianze, perché vogliamo in questo modo vivacizzare sicuramente la nostra trasmissione. Allora, Giovanni da Torino, buongiorno Giovanni. A Torino come ve la passate? Buongiorno, allora io abito in provincia di Torino, a Carignano, ho un bambino di 2 anni che frequenta un asilo nido di cui sono molto contento, pago la retta massima di 500 euro, il 12 gennaio mi viene consegnata una lettera dall'asilo dove la mia retta passa da 500 euro a 610 euro, cioè un aumento del 20%, retroattiva al 1 gennaio. Ecco, io mi chiedo se è possibile fare un aumento del 20% con l'anno in corso, e mi chiedo se è possibile fare un aumento così grosso, così grande, cioè praticamente io e mia moglie lavoriamo per pagare l'asilo. Ecco, la mia domanda era questa. E infatti, Giovanni, grazie. Volevo sentire anche Andrea e poi rispondiamo anche alla sua testimonianza. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Mi perdoni, io volevo uscire un pochino dal coro, nel senso che è chiaro che le scuole, gli asili costano e hanno un certo peso nel budget familiare, però per me ogni tanto bisognerebbe anche sedersi con i nostri figli e fargli spiegare, insomma, spiegargli che comunque non è così caro un libro che costa 20 euro, meravigliarsi perché un libro costa 20 euro. Sì, però noi oggi, Andrea, parliamo di asili nido, per la verità, quindi qua parliamo di spese, non è che il bambino gli puoi spiegare quello che ha 2 anni, che si può mettere un pannolino di una certa qualità, di una certa marca, piuttosto che di un'altra. Qui sono ragionamenti che si possono fare con bambini di 6, già 8, 10 anni, non crede? Sul nido aveva qualche idea? Sì, la mia esperienza è chiaro che è quella praticamente di avere già 2 bimbi che frequentano le scuole medie sicuramente, però anche poi alla fine andare a investire 200 euro, 300 euro in un ovetto di marca o in un passeggino eccetera e poi lamentarsi comunque. No, vabbè, allora qui parliamo di una cosa diversa, parliamo proprio delle rette che ci impongono i comuni per mandare il nostro bambino in un asilo nido comunale. Andrea, no, io sono d'accordo con le sue considerazioni, le rimandiamo però a settembre, all'inizio della scuola, quando lì sarà il momento di fare un certo ragionamento con i bambini un po' più grandi che pretendono magari chiaramente lo zaino che costa 150 euro e se il bimbo si può accontentare con uno di marca meno famosa, naturalmente sicuramente più conveniente. Rapidamente Giuseppe da Milano e poi andiamo a Paolo Uniti. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo trattare un tema che ancora non è stato citato in questa trasmissione. Una cosa un po' imbarazzante in Italia, il discorso degli asili, dei nidi aziendali. Nelle aziende italiane non esiste questa cultura, ce ne sono pochissime, invece all'estero è una tradizione, è un onore, è un piacere per le aziende portare avanti. Tante volte si parla di benefit nelle aziende per i dipendenti, per i dirigenti, per i quadri, per quant'altro, e si parla esclusivamente di remunerazioni aggiuntive. I veri benefit, secondo me, sono altri. Io e mia moglie abbiamo, io ho 38 anni, mia moglie 35, lei ha la fortuna di lavorare in una grossa azienda editoriale qui a Milano. Uh-huh. E questa azienda ha il nido aziendale, per noi è stato un miracolo questo. Certo, tra l'altro noi ci sentiamo oggettivamente dei miracolati. Esiste un contributo, che... ma chiaramente non è gratuito, il servizio pure è gratuito, no, dovete corrispondere. Non è gratuito, però il 50% della retta lo paga l'azienda. Ma stiamo parlando però di un nido aziendale, ripeto, quindi all'interno del comprensorio dell'azienda. Certo, quindi per ogni evenienza sua moglie può correre se ci fosse bisogno. Con 25 bambini massimo, che chiaramente, come lei ben saprà, in un anno intero non esiste giorno in cui ci siano 25 bambini presenti al nido, per tutti i motivi che riguardano la salute normale dei bambini, e ci sono 7 insegnanti. Allora, abbiamo messo sul piatto, grazie mille al nostro ascoltatore Giuseppe da Milano per averci anche sollevato questa questione, che credo che peraltro soprattutto nell'ambito delle organizzazioni, delle associazioni dei consumatori, anche forse nell'ambito del coordinamento genitori democratici, sarà sicuramente un tema che prenderanno, di cui discuteranno. Vedremo poi se sono, come dire, in corso anche trattative o delle discussioni con il mondo imprenditoriale appunto su questo, però prima vorrei sentire Paolo Uniti sulla prima testimonianza del primo ascoltatore, oltre che un ragionamento complessivo su tutto l'argomento, sull'ascoltatore che ci ha raccontato che il 12 gennaio ha ricevuto questa bella comunicazione da parte del nido dove porta il suo bambino di 2 anni e che retroattivamente gli applicherà un aumento di 110, 120, 110 euro appunto, così, di punto in bianco, senza averglielo comunicato in via preventiva. L'aumento retrattivo parte da subito, funziona così nell'ambito delle organizzazioni, dei nidi e delle scuole materne, dottor Uniti? No, onestamente ero molto perplesso anch'io quando ho ascoltato il vostro radioascoltatore, perché diciamo, per quello che riguarda il privato normalmente si firma un contratto dove è chiaramente scritto quello che è la retta, e quindi fino a chiusura del contratto la retta quella rimane, cioè non esiste un tipo di aumento del genere. Se poi fosse un nido comunale, lì, oddio, da un punto di vista politico è una sorta di autogol, fermo restando se chiaramente stiamo ragionando su una testimonianza telefonica. Sembra proprio un modo per scoraggiare l'inserimento dei bambini. Non è politicamente corretto, voglio dire, una cosa del genere, cioè quantomeno, se ripeto, un nido privato, cioè se è un nido privato, bisogna vedere il contratto che è stato sottoscritto, ma non trova giustificazione comunque un aumento soprattutto sulla retroattività, ecco, è quello che mi lascia veramente... così un po' perplesso sul modus operandi di quello che è successo in questo comune, però bisognerebbe poi vedere, guardare le carte per analizzare più con calma. Mentre per quello che riguarda anche gli interventi precedenti, bisogna fare una premessa, secondo me, sostanziale, che pochi sanno, no? Cioè, in realtà la cultura sul nido, quindi parliamo della fascia 0-3 anni, in Italia è abbastanza recente, voglio dire. Si è iniziato a parlare del nido dell'infanzia a partire dall'Ottocento, ma era tutto delegato agli istituti ecclesiastici e quant'altro. Tant'è che poi dagli anni 60 si è iniziato con il boom, si è iniziato a parlare di asili nido, e di qui la prima legge, che è la 1044 del 71. Detto questo, quindi vuol dire che stiamo parlando di un settore dove anche il pubblico poi si è regolamentato abbastanza di recente. In Regione Lombardia abbiamo una situazione diciamo di regolamentata, ecco, questo sugli interventi precedenti. In realtà anche è regolamentata sia da un punto di vista per quello che riguarda gli orari, ma anche per quello che riguarda la qualità dei nidi. Tant'è che ci sono delle linee guida generali di Regione Lombardia, ma la stessa cosa anche in Piemonte, e poi i comuni, fermo restando le linee generali di regionali, mettono tutta una serie di requisiti per alzare il livello di qualità dei nidi che poi lavorano in convenzione. Io sto parlando del privato, ovviamente, in questo caso. Quindi sulla base di questa situazione regolamentare che lei ci spiega, a Lecco 537 euro appunto di retta mensile, che cosa dovrebbe comportare appunto in termini di servizi una retta di questo tipo per poter essere giustificata? Perché magari saranno i servizi migliori del mondo, sicuramente, però una cifra molto alta. No, assolutamente, voglio dire, sul discorso delle rette, e questa questa, diciamo, questo gap che c'è tra il meridione e quant'altro, lì è una questione di come anche si amministra un'amministrazione pubblica, cioè quanto poi va a perdere effettivamente su questo servizio nel caso del pubblico, nel senso che comunque su un bambino, in Regione Lombardia noi abbiamo un regolamento che parliamo di 1 a 7, quindi un'educatrice ogni 7 bambini. Sette bambini, sì. Quindi su questo bambino ruotano 2 educatrici, uh-huh, con tutto quello che ne consegue in termini di costi e quant'altro, voglio dire. Quindi sono dei costi proprio per il pubblico basati in base, che sono i costi anche dei collaboratori, dei dipendenti comunali che si alternano all'interno della struttura. Uh-huh. Poi possiamo ragionare sul fatto perché, voglio dire, magari a Salerno costano 200 o quant'altro, però lì è una questione poi effettivamente di quanto l'amministrazione comunale rinuncia, cioè quanto ci va a perdere insomma per questo servizio, sì, magari fine, incrementa le tasse da un'altra parte. Ragionare. Fermo restando che ci rendiamo conto che sono costi assolutamente importanti per una famiglia. Certo, infatti. No, poi per carità, ribadisco, il bebè ha bisogno di un certo tipo di attenzione, per cui magari la famiglia è assolutamente anche contenta di poter pagare questa cifra. Il problema è che è molto alta rispetto agli stipendi che si percepiscono, e appunto e quindi bisogna fare due conti e qualche volta ragionare molto attentamente. Le preoccupazioni sono attualmente condivise, ma ripeto, anche nel rispetto dei contratti collettivi poi vigenti sui lavoratori e le lavoratrici che operano all'interno delle strutture. Certamente. Allora, ci dobbiamo fermare, abbiamo un'altra pausa, suggerimenti per chi è in viaggio, poi altri ascoltatori che vogliono raccontarci appunto la loro esperienza, effettivamente, come dire, le parentesi che si aprono affrontando un tema tanto delicato sono moltissime, però insomma quello che vogliamo mettere all'attenzione generale è che effettivamente sta diventando veramente caro tutto quanto, e oggi purtroppo o per fortuna, non lo so, purtroppo immaginare di avere un bambino pone la coppia appunto nelle condizioni di fare delle riflessioni veramente molto molto serie. Allora, vorrei sentire Stefania dalla provincia di Udine. Stefania, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci racconti. 3 figlie, allora, 3 bambine. Ho 3 bambine. Mm. La più grande ha 5 anni e mezzo. Quando l'ho iscritta al nido, perché lavoravamo tutti e due, costava 470 euro per l'intera giornata. Mm-hmm. Tutto compreso. Il comunale, nello stesso periodo, mi costava 10 euro di differenza. Mm. Non c'erano i pannolini, non c'erano i fazzoletti. E non c'era né l'apertura sotto Natale, né a Pasqua, né d'estate. Sì, cosa discriminante, che per la verità so che anche Paolo Uniti ci tiene a raccontare, che molto spesso effettivamente le strutture private ampliano ovviamente anche la disponibilità in termini di tempo nelle giornate. Sì, quindi Stefania cosa ha fatto? L'ho mandata al privato. Mm. Io finivo di lavorare alle 6, il papà alle 5, quindi comunque il comunale non avremmo potuto. Mm-hmm. Dopo ci sono trasferiti in Friuli e qui esiste una gran cosa che è il servizio primavera, che è una sorta di preasilo, una classe speciale per i bambini dai 2 ai 3 anni all'interno di una materna privata, che però ha dei costi decisamente più attenuati rispetto a un nido. Mm. Interviene il comune, io l'anno scorso per la mia seconda bambina pagavo 180 euro al mese, tutto il giorno, fino alle 4 ovviamente. Però con dei servizi dedicati a bambini di 2 anni. E infatti, una buona via di mezzo fra il nido e la scuola materna. Mm-hmm. Stefania, vuole fare la scuola materna pagano fortunatamente solo la mensa. Ecco, vuole fare anche la quarta? No. In bocca al lupo per le sue bambine, naturalmente. Grazie. Volevo coinvolgere Angela Nava su una riflessione posta dall'ascoltatore di Milano, il tema dei nidi aziendali. Sicuramente potrebbero risolvere molti dei problemi dei quali abbiamo parlato fino a questo momento, no? Però siamo ancora anche qui ben lontani da questa cultura, non tutte le aziende se lo possono permettere, ma solo quelle di una certa dimensione, di una certa esperienza, no, dottoressa Nava? Sì, io non nascondo che inizialmente parlo di anni fa, quando tutto sommato il rigore e la divisione tra pubblico e privato era molto netta anche in tutti noi, no? L'idea del nido aziendale non sembrava la più, come posso dire, seducente. Tuttavia negli anni invece, per esempio, Roma ha avuto qualche virtuosa esperienza di questi nidi aziendali a cura di alcuni enti pubblici, gli ospedali o l'AMA, piuttosto che con un requisito che poi era anche fondamentale, che era quello dell'apertura però anche ai figli dei non dipendenti, ovviamente nella disponibilità di posti, che è stata effettivamente una goccia nel mare, ma poteva essere significativo. Questo perché voglio dire che ci sono anche delle possibili soluzioni, che quella del nido aziendale è effettivamente una forma di investimento, e torniamo poi al nodo del problema. Sembra che qui si stia chiedendo l'elemosina, cioè che non ci sia da parte dello Stato un'assunzione che l'educazione, e dico educazione proprio education nel senso più ampio, è un investimento per una nazione, non è soltanto un welfare distributivo da poveracci. L'ascoltatrice di Udine inoltre poneva per esempio un altro problema, quello delle sezioni primavera. Nella legislatura pre-Berlusconi questa delle sezioni primavera fu un'innovazione importante fatta di concerto col Ministero dell'Istruzione, cioè si accoglievano quei bambini che un tempo dicevamo anticipatari usando locali pubblici in convenzione, quindi con controlli di qualità. Ma anche questa è una realtà che poi è affidata appunto alle regioni in qualche modo, che è rimasta una voce nel deserto. Sono pochissime le sezioni primavera attivate, eppure esse hanno costituito davvero un sollievo per molte famiglie, perché a prezzi davvero da inflazione, insomma, vede un po' lei, da questa possibilità da oltre mi 400 piace... euro a 180, esatto, per la mamma di prima, vorrei vedere voglio vedere in un bilancio familiare e con requisiti di qualità che venivano stabiliti dal Ministero dell'Istruzione, quindi con una regia imponente. Mi piacerebbe ricordare ancora, perché poi si tratta di volontà politica, di assumere il problema, che già c'è una legge di iniziativa popolare oramai da 3 anni che aveva raccolto più di 400.000 firme, che proponeva di far passare proprio l'idea del nido non a domanda a servizio individuale, ma attinente proprio il sistema di istruzione, e che differenziava i servizi, cioè non necessariamente il nido, poteva essere la ludoteca, poteva essere una qualsiasi altra forma di servizio che dilatasse i tempi. Anch'essa però, allora, c'è una volontà politica o una modalità di considerare questo problema, che è oramai inaccettabile. Esatto, e poi oltretutto, se mi permette, sono anche questioni che alla famiglia, quando deve scegliere dove mandare il proprio bebè, interessano anche poco, perché deve risolvere molto più praticamente in tempi rapidi invece la questione privato o comunale, quanto mi costa e punto, e qual è la struttura più vicina a casa mia. Rapidamente, Aldo dalla provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno. Rapidissimo, che stiamo chiudendo, grazie. Sì, complimenti per la trasmissione e scusi l'emozione. Noi gestiamo 2 asili nido in provincia di Varese. Sì. E per ridurre la retta delle famiglie abbiamo pensato di suggerire alle famiglie di andare a fare degli acquisti presso negozi artigiani convenzionati. Però ci devono andare da le famiglie, Aldo. Degli sconti. E gli sconti vengono girati direttamente al nido, che li tolgono dalla retta alla del retta. Bambino. Vabbè, insomma, ci si organizza un po', no? Per rendere un po' più tranquillo questo impegno finanziario mensile delle famiglie, Aldo. Però, insomma, noi auspichiamo che siano le strutture a poter fare tutto questo, che non nelle famiglie che già hanno il problema di dover mollare il bambino piccolo, che già è un distacco problematico, di dover pensare anche a come alleggerire la retta mensile. Io non ho più tempo per ascoltare gli altri ascoltatori, appunto, che volevano intervenire. Chiara da Novara voleva dirci, appunto, come dicevamo prima, che i privati hanno spesso molta maggiore elasticità oraria, cosa che abbiamo detto. Uniti, le concedo a lei 30 secondi a Sonidi, questa è una cosa che sapevamo, però molto spesso, appunto, a parità di costo effettivamente si va cercando la struttura che permette più elasticità oraria alle famiglie, no? Sì, va visto nella sua articolazione dei quello che offre anche un privato, fermo restando che la differenza di prezzo ormai tra privato e comunale, se guardiamo l'orario di apertura e le giornate, non voglio dire che quasi concorrenziale, ma poco ci manca. Benissimo, allora speriamo che questi rincari si fermino qua, e soprattutto che non funzionino come l'ascoltatore che ci ha raccontato prima, che vengono comunicati punto e basta, e che le famiglie si ritrovano a subire senza possibilità di scelta. Grazie ad Angela Nava, Tina Napoli, Paolo Uniti per essere stati con noi. Salvadanaio torna domani, buona giornata a tutti.